Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Lanciare letteralmente uno sguardo nell'immediato futuro e quanto potrebbero essere in grado di fare nell'arco di pochi anni, probabilmente operai, addetti alla manutenzione, soccorritori e quant'altro, grazie all'applicazione dell'intelligenza artificiale. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Smart City che prosegue questa sera con il viaggio nel mondo dell'intelligenza artificiale iniziato ormai qualche mese fa. E allora torniamo all'argomento, tentare di prevedere che cosa accadrà nei prossimi secondi è in realtà qualcosa che facciamo continuamente nel lavoro, nello sport. Pensate a quando stimiamo dove cadrà una palla oppure mentre siamo alla guida di un'auto. Ebbene, l'intelligenza artificiale potrà presto aiutarci a fare tutto ciò in modo più preciso e soprattutto al riparo da distrazioni. Ne parliamo con Giovanni Maria Farinella, che è professore associato del Dipartimento di Matematica e Computer Science dell'Università di Catania. Buonasera Farinella. Buonasera a voi. Allora, senta, l'idea che un giorno non lontano saremo assistiti, diciamo così, nelle nostre attività quotidiane da una sorta di assistente personale dotato di intelligenza artificiale ormai, diciamo, nelle cose. Voi siete tra i primi al mondo a lavorare su uno scenario che punta, diciamo così, a realizzare una sorta di assistente personale indossabile sotto forma di occhiali, occhiali che in qualche misura appunto sono capaci di guardare nell'immediato futuro. Ci spiega? Sì, immaginate di essere in un ambiente di lavoro e poter indossare degli occhiali che vedono dal punto di vista appunto di chi sta effettuando il lavoro e questi occhiali siano in grado di capire non solo gli oggetti che state utilizzando ma anche di prevedere qual è il prossimo oggetto con cui interagirete prima ancora che questo venga toccato dall'operatore. Ecco, perché il primo scenario che hai descritto è quello della realtà aumentata, che è qualcosa ormai diciamo di consolidato, no? Io guardo attraverso un cellulare o degli occhiali un ambiente e il sistema di intelligenza artificiale di bordo mi riconosce, diciamo così, gli oggetti, no? Per esempio, se guardo un quadro mi dice di chi è. Mi restituisce informazioni sull'oggetto e quant'altro. Per andare oltre dobbiamo poter prevedere i comportamenti degli utenti, significa che il nostro sistema di intelligenza artificiale attraverso le immagini deve poter capire cosa farà l'utente nell'immediato futuro. Prevedere le azioni e prevedere l'interazione con gli oggetti dell'utente ci abilita ad attivare dei meccanismi che possono essere di salvaguardia per esempio della salute stessa degli utenti, ad esempio se abbiamo un pannello elettrico con cui l'utente interagirà possiamo fermare l'utente prima ancora che questo interagisca con il pannello nel caso in cui si possano verificare dei rischi. Ecco, il pannello è sotto tensione oppure il tale interruttore è sotto tensione, esatto. L'utente avvicina la mano, voi lo avvertite, dice no, non toccare lì, o addirittura? Addirittura si potrebbero utilizzare dei meccanismi di comunicazione con dei sistemi IoT che possono spegnere il pannello ed evitare che accadano dei danni. Diciamo le applicazioni di questo tipo di tecnologia che prevede l'immediato futuro possono essere diverse nell'ambito non solo industriale ma anche nell'ambito dei beni culturali o dell'assistenza a casa ad utenti anziani al fine di supportare la memoria a breve e lungo termine. Ci faccia capire meglio. Ad esempio, nell'ambito dei beni culturali, dopo aver supportato l'utente con la realtà aumentata, possiamo prevedere quali sono i prossimi interessi dell'utente, possiamo indirizzarlo su alcuni dei artefatti che sono presenti nelle altre stanze di un museo. O a casa potremmo supportare l'utente facendo vedere un video di come si utilizza un oggetto prima ancora che questo venga toccato e utilizzato. Quindi una persona si avvicina ad un oggetto, il sistema riconosce che questa persona ha intenzione di utilizzarlo e gli dà delle indicazioni. Esatto, dà delle indicazioni. Addirittura l'idea è quella di poter monitorare il tempo di utilizzo degli oggetti a fine di poter fare manutenzione predittiva ad esempio in azienda, cosicché certo. Prima ancora che gli oggetti si usurino completamente l'azienda può prendere provvedimenti e quindi può evitare che il lavoro di un operatore si fermi. Ecco, mi faccia capire, immaginiamo che uno stia passando, non so, in un grande magazzino sotto un pacco che rischia di cadere. Quando si parla di prevedere il futuro, diciamo, i rischi, anche situazioni di questo genere sono contemplate? Situazioni di questo genere possono essere contemplate, anche se, a dire il vero, questo tipo di rischi vanno controllati con altri tipi Siamo perfettamente d'accordo. Senta, dobbiamo sempre utilizzare la tecnologia per quello che effettivamente può darci, non dobbiamo mai affidarci al 100% senza far prima dei test e delle certificazioni. Insomma, i dispositivi che vogliamo utilizzare. È meglio non camminare sul campo minato anche con i suoi occhiali, diciamo, è una pessima idea. Senta, c'è qualche problematica di carattere tecnologico che secondo lei bisogna risolvere prima di poter avere una diffusione di oggetti di questo genere? Sì, attualmente non abbiamo dei dispositivi che hanno una lunga durata in termini di batteria e quindi questo è uno dei limiti più grossi. Immaginiamo ai nostri vecchi telefonini che dovevano essere caricati ogni due ore, in questo momento i dispositivi indossabili hanno questo grosso limite. Le tempistiche invece dal suo punto di vista quali potrebbero essere? Quando degli oggetti del genere potrebbero essere disponibili e quali potrebbero essere gli ostacoli? Sì, nell'immediato possono essere fruibili sicuramente dei dispositivi del genere in alcuni ambienti in cui non c'è rischio umano, mentre nei dispositivi... Quindi per esempio per i beni culturali, se sbagliamo a indicare quale quadro andare a vedere, diciamo, non facciamo un grande danno. Non facciamo un grande danno, benissimo. Mentre per quanto riguarda i dispositivi che saranno a supporto, quindi quelli che sono chiamati dispositivi di sicurezza con intelligenza artificiale, dovremo aspettare ancora un po', 5-10 anni, affinché la tecnologia diventi uno standard e si possa essere certificata per entrare appieno negli ambienti di lavoro, anche perché si deve anch'essa regolamentare con il nuovo GDPR e quindi con tutto quello che ha a che fare con problemi di privacy. Va bene, grazie Giovanni Maria Farinella. Buonasera. Cari ascoltatori, abbiamo concluso anche per questa sera. A voi tutti, appuntamento a lunedì.